America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. It's sort of frustrating that it has to be a big thing. It shouldn't be a big thing that the Prime Minister's walking in Pride Parade. Una parata, ma non una parata qualunque, avete sentito? Due giorni fa, domenica scorsa, Justin Trudeau è stato il primo capo di governo canadese a marciare in una parata gay-lesbiche a Toronto. E quindi ha fatto storia. La settimana prima, Gay Parade a New York. Milioni di persone celebravano lo Stonewall Inn. Che cos'è? Beh, il locale del Greenwich Village, che fu teatro degli scontri del 69 tra polizia e manifestanti per i diritti gay. E, insomma, quelle dimostrazioni hanno segnato l'inizio del movimento moderno per i diritti dei gay in America. E Obama cosa ha fatto? Ha proclamato sempre la settimana scorsa lo Stonewall Inn come il primo monumento nazionale per i diritti dei gay. L'altra settimana, di nuovo un'altra notizia, due transgender democratiche si sono candidate per un seggio in Parlamento. Anche questa è storia, perché è la prima volta. Quindi una serie di eventi in America che danno l'idea che, insomma, il progressismo per la tutela dei diritti dei gay è molto avanti. E noi? Beh, insomma, io lo dico spesso raccontandovi l'America su questi temi. Secondo me noi siamo indietro, i gay sono tollerati, le battute ci sono sempre, i diritti su matrimonio e figli non sono come quelli che ci sono ormai affermati in America. Giusto, sbagliato, scrivetemi naturalmente, please scrivetemi con le vostre opinioni. Intanto ne parlo con Frank Bruni, che è un columnist del New York Times, che ha scritto un articolo molto provocatorio dall'Italia, perché è stato corrispondente del New York Times da Roma, e in questo articolo così fa capire che in fondo gli uomini italiani che fanno così molto i macho, in realtà potrebbero essere molto più gay di quello che pensano o di quello che sanno, per una serie di ragioni caratteristiche del nostro paese. Buongiorno Frank. Buongiorno. Ecco, tu hai scritto un articolo sull'Italia, sull'omosessualità in Italia, sui diritti degli omosessuali, e in modo un po' provocatorio tu sostieni che l'Italia in realtà, secondo te, ha un'anima omosessuale, perché ha la forma di uno stivale, perché ci sono delle sculture, non so, il Davide di Michelangelo, per esempio, che richiamano alcuni aspetti omosessuali e così via, così via. Ecco, ti cito però il commento da parte di un personaggio che lavora molto con gli Stati Uniti, che, devo dire, ha una mentalità molto aperta nei riguardi della tua provocazione, e dice: la stupidità non è il monopolio di nessuno, come dire, Frank è andato troppo in là. Ecco, forse hai colpito un nervo scoperto, hai voluto essere provocatorio, oppure credi davvero che gli italiani, e in particolare gli uomini italiani, in realtà hanno questa posizione un po' critica nei confronti degli omosessuali, perché in fondo lo sono anche loro? No, I never wrote that. It's interesting for people to read that into it. No, non ho scritto questo, però è interessante che alcuni lettori si siano sentiti attaccati. Significa che sono sulla difensiva. Ho scritto che l'Italia è la capitale dei vestiti da uomo, somiglia ad uno stivale, ma ovviamente questo non dà alcuna informazione sull'omosessualità del paese. Ho usato queste provocazioni per introdurre il vero argomento. Tra i paesi occidentali, sviluppati e istruiti, l'Italia non ha tenuto il passo nel legiferare per i diritti degli omosessuali. Questo è il vero tema del mio articolo. Devo dire, sono d'accordo con te, cioè c'è un grosso problema di pregiudizio e di razzismo nel nostro paese, lo vediamo negli stadi, lo vediamo contro gli ebrei, lo vediamo contro i neri. Ecco, perché secondo te c'è questo tipo di reazioni? I don't know or necessarily believe that Italy in day-to-day life. Non credo che l'Italia nella vita di tutti i giorni sia una nazione omofobica. Io sono un omosessuale dichiarato, ma in Italia ho vissuto molto bene, l'ho scritto anche nel mio articolo. I parenti del mio compagno, toscani, ci hanno sempre accolto a braccia aperte in casa loro, nonostante fossimo una coppia gay. Quello in cui considero l'Italia arretrata è il suo sistema di leggi. All'estero si è festeggiato il fatto che abbiate legalizzato le unioni civili, ma ancora non si parla di matrimonio, così come non garantite l'adozione per le coppie omosessuali. Penso che questo sia in larga parte dovuto alla Chiesa cattolica. Il Portogallo è un paese cattolico, ma riconosce il matrimonio gay, lo stesso vale per la Spagna e per l'Argentina. La vera differenza sta nel fatto di avere il Vaticano all'interno dei propri confini. La sua presenza rende l'Italia più deferente e spinge la Chiesa a mostrare i muscoli sulla scena politica. Bene, allora abbiamo chiarito la questione, abbiamo approfondito il vero tema dell'articolo, però tu hai anche scritto un'altra storia sull'Italia, cioè si è parlato un pochino anche di politica, di confronti, eccetera, eccetera. Prima di arrivare a quello voglio chiederti, che cosa hai provato a tornare in Italia da giornalista? Sono tornato ogni anno, ma in passato ho preferito dedicare il mio tempo al relax e al divertimento piuttosto che al lavoro. Mio padre è italiano, io amo questo paese, è stato interessante visitarlo in questo periodo, mentre l'Europa è percorsa dalle stesse tensioni politiche che attraversano l'America. Si può trovare l'eco della campagna di Trump in vari paesi europei, ma la cosa curiosa è che l'Italia al momento sembra tranquilla. È stato un viaggio interessante e rilassante. Ecco, hai menzionato la parola chiave, Trump, infatti è di questo che poi volevo parlare. Il tuo secondo articolo sull'Italia è dedicato proprio a lui e alla percezione che hanno di lui gli italiani. Tu in fondo sei stato il primo a paragonare Trump a Silvio Berlusconi. Ecco, secondo me questo è un accostamento più efficace rispetto a quello che alcuni hanno fatto fra Trump e i leader dei movimenti dell'estrema destra in Europa. Però, secondo te, dove lo collochiamo Trump? Nella categoria politica di Berlusconi o no? Perché in fondo Berlusconi non era né un razzista né un estremista, cioè è più a destra di Berlusconi. Sono d'accordo, è difficile definirlo in una parola sola, ma credo che Trump sia peggio di Berlusconi. Mi spiego. Trump è andato ben oltre Berlusconi. Lui usava un linguaggio abile e a volte ridicolo, spesso dava persino l'impressione di non essere completamente assennato, ma Trump è molto più polemico sui temi religiosi e razziali e in questo contesto è andato oltre. Questa è la vera differenza. Berlusconi voleva essere simpatico, scherzoso, mentre Trump è una figura molto più cupa. Hillary Trump, veniamo al sodo, perché poi la gente vuole avere i pronostici. Pensi che Trump possa farcela, possa vincerla contro Hillary? I am out of the business. Non è nelle mie corde fare previsioni riguardo a Donald Trump, ma il punto vero è un altro. Viviamo in un paese politicamente bipolare, dove qualsiasi candidato repubblicano o democratico potrebbe in teoria vincere qualora si verificassero le giuste circostanze nel corso della campagna elettorale. Scommetterei i miei soldi su Trump? No, non credo. Penso infatti che la situazione favorisca Hillary Clinton. Nelle scorse settimane abbiamo assistito a diverse critiche da parte dell'establishment repubblicano nei confronti di Trump. Credo proprio che la sua campagna potrebbe anche trasformarsi in un disastro. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho sempre con me i microfoni di America 24, Frank Bruni, columnist del New York Times. Frank, Song of the Day. Sceglierò una canzone intitolata Silver Spring dei Fleetwood Mac. Erano molto famosi intorno alla metà degli anni 70 quando andavo alle superiori. È stata la colonna sonora di quel periodo della mia vita e ho continuato ad ascoltarli. Ho anche intervistato il cantante diversi anni dopo. È stato un sogno che si è avverato. Bene, grazie Frank. Silver Spring dei Fleetwood Mac. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!